benvenute a tutte e a tutti a una nuova puntata di Eclettismi spaziali subtropicali. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Oggi parleremo di gig economy e di lavoro mediato dalle piattaforme digitali e di come questa, assieme alla sharing economy, sta trasformando la nostra società. La gig economy, a differenza della sharing economy, modello Airbnb, è un'economia caratterizzata da lavori flessibili e temporanei che coinvolgono liberi professionisti e lavoratori indipendenti, ad esempio le aziende delivery del cibo. Le gig aziende classificano i lavoratori come lavoratori autonomi, ma utilizzano la tecnologia per controllarli, monitorarli e valutarli. La gestione algoritmica del lavoro è stata l'innovazione che ha consentito alle aziende della gig economy di trasformare una marea di lavoratori occasionali in un servizio standardizzato, continuo e su richiesta. Ha permesso alle aziende di assumersi gran parte del potere dei datori di lavoro senza alcuna responsabilità. Per molti rappresentava il futuro del lavoro, ma ha dimostrato la sua rovina. Sei tu il tuo capo? Ma a discapito di cosa? L'erosione del lavoro a tempo pieno, la scomparsa delle prestazioni sanitarie assicurative, l'assalto ai sindacati, la trasformazione dei lavoratori in imprenditori autonomi che devono pensare come l'azienda. La cosa assurda è che le gig aziende non realizzano profitti in eccesso sfruttando i lavoratori. Ma la realtà è più strana di questa. Fanno pagare poco ai clienti e perdono denaro, anche con costi di manodopera ridotti. Più grandi diventano, più soldi perdono. Queste aziende acquistano valore perché grandi fondi di investimento, fondi sovrani come l'Arabia Saudita, venture capitalist, scommettono su questo cambiamento perché la gig economy e la sharing economy hanno trasformato il mondo. Non si sa verso quale direzione, ma di sicuro l'hanno cambiato. Una domanda da farsi è: quando questi servizi smetteranno di essere così economici, continueremo a usarli? Ora le cose costano anche meno del loro valore. Se la consegna del cibo diventa troppo costosa, forse le persone torneranno a ritirarle da sole. La gig economy è il futuro del lavoro? Ho i miei dubbi. Lavoratori di tutto il mondo, accendete i vostri smartphone. E oggi ne parleremo con ospiti dal campo, persone folgorate sulla via del disastro, DJ sindacalisti e ciclofuturisti. Vi presento il primo ospite, direttamente da Carbonia, nel Sulcis, in Sardegna, anche conosciuto come DJ Serbario Tropical Mine, dal 71 al 2020, una vita in sella, DJ Rino. Canta Sassari, Sassari con la mano. Porca troia! Ciao a tutti amici carissimi, amico meno. Grazie per avermi invitato per raccontare la mia storia. Io nasco, ti dico, ero un minatore più o meno, o facevo le consegne per i minatori. Stavo a Carbonia, dove sono nato. Ma cosa consegnavi, carbone? Quello è strano, io facevo delle consegne che erano diverse da quelle standard. Adesso se tu mi chiedi che c'era lì dentro, non lo so. Quando arrivavo io in miniera tutti erano contenti e facevamo delle feste della Madonna. Ho cominciato a mettere i dischi io, perché facendo il viaggio mi compravo i CD all'autogrill. Finché un giorno, ti dico, torno, eravamo all'apice, ho fatto 5 viaggi a settimana, a venerdì torno. Ho portato la musica fresca e tutti è presi benissimo, ti dico. Mettiamo, facciamo, tiriamo sulla festa. Eravamo io, Pantani e come si chiama il biondo? No, no, il can. Il biondo degli 883. No, dai, Cipollini, dai, eravamo io, Cipollini e c'era il pirata con noi. E a un certo punto io mi ricordo solo il basso che faceva. Purtroppo le miniere chiusero qualche giorno dopo. Ma io letto dei giornali, si parlava forse di feriti. No, ma sono dovuto andare via perché al paese praticamente la gente incominciava a dire che la situazione era stata colpa mia. Me ne sono dovuto andare, ecco, me ne sono dovuto andare nel continente con la nave, e il primo posto che ho visto, Civitavecchia, e poi Roma, Roma che mi sono innamorato, ti dico, bellissima. Nel 71 a Trastevere ci si divertiva in maniera incredibile, ti dico, meno, andavamo in giro, facevamo... Le prime critical mass le facevamo suonando la chitarra, ti dico. Poi piano piano ho cominciato, ho portato le casse, ho cominciato a mettere su, poi insomma di tornare un po' alla pompa che mettevo quando stavo nel Sucis. Sono diventato prima DJ Fattorino perché i miei amici mi dicevano: oh, Arino, DJ Arino, stai Fattorino. E da lì praticamente mi hanno cominciato a chiamare loro proprio DJ Fattorino. Ma poi ti dico, assurdo, cioè il nome Fattorino tutti ridevamo. Non sono finito a lavorare, fare anch'io le consegne con la robot, mega robot, corpo gig economy. Questi sindacalisti che vi voglio presentare. I rappresentanti sono della gig economy, sindacalisti della gig economy. Noi siamo a difesa, confederazione, i confederati a difesa del lavoro dei super eroico i robot, contro degli operai. Gig economy che nasce, noi sappiamo che esiste questo, insomma, come confederati tra noi, Mazinga Z e Daltanius. Facciamo tutto noi, facciamo tutto noi. Pagati a cottimo, perché tu vieni pagata a giornata col numero di cose che uccidi. Di chiamate in base a quella, alle necessità della popolazione del pianeta. Noi sappiamo Gig Robot che, insomma, come connotazione, ha questa connotazione molto popolare, no? Lui è di Torbella Monaca, quindi comunque nasce da un ceto sociale di certo da non un'esigenza, anche da un'esigenza, quindi... l'esigenza del territorio di difendersi da adesso, esatto, c'era un ragazzo che voleva dire una cosa riguardo le imprecisioni dei nostri amici, che purtroppo oggi si è che tre capre e il vino che... Allora, innanzitutto devo dire, volevo precisare che noi robot veniamo da altri pianeti e già questo ci rende comunque una categoria molto fragile. Veniamo insultati ovunque andiamo. Ah, tornatene al pianeta tuo! Non c'è là la galassia tua! Cioè, e allora ogni volta deve venire Mazinga Z da Torbella a difenderci. Grazie, io devo ringraziare i sindacalisti perché stanno facendo un lavoro incredibile, che non risolvono niente. Diciamole queste cose. Ah, noi sindacalisti poveri, diciamo, quelli che la gente della strada, la gente che lavorano, a differenza di questi che delegano ai robot, vogliamo lanciare un messaggio bello chiaro e vogliamo dire che noi scorrazziamo senza corazze. Non c'è degli operai specializzati come noi che dobbiamo tenere. Noi ci prendiamo la responsabilità di far tornare l'essere umano a quello che era, con la sua dignità, senza l'uso e l'abuso di queste tecnologie che stanno facendo altro che distruggere il nostro pianeta. Porca troia! Porca troia! Una nemica civiltà. Purtroppo quelli che pensavo essere persone che potevano portare qualcosa in trasmissione si sono rivelati degli emeriti sindacalisti. Volete votate per noi un pezzo musicale lanciare, volete? Sì, lo parlo io. Sono un missile. ed ora sono inutile. Immangibile. Per fare una consegna? All'incirca 3 minuti. Meno tempo ci metti, più tempo guadagni per le altre cose. È successo anche che mi sono sentito male sul furgone, un attacco di panico improvviso mentre stavo facendo le consegne dovuto allo stress, perché chiaramente correndo tra una consegna e un'altra c'è il pericolo anche che succede che ti senti male. Sono andato a finire in ospedale per un attacco di panico. E nel chiamare l'ambulanza sono stato contattato dal magazzino. Mi hanno chiesto non come stai, quante consegne ci sono rimaste sul furgone e a chi hai consegnato le chiavi al furgone. È difficile lavorare in queste condizioni. E come fanno a controllarti? Con il device, che sarebbe un palmare dove tu c'hai sopra tutta la merce caricata. C'è una cabina di regia e c'è il regista dove si mette davanti al computer e sa tutti i nostri spostamenti, tutte le nostre consegne, da chi stiamo, da chi non stiamo. Dov'è il regista qui? Colui che tiene le fila di... Colui che tiene le fila di tutto questo, visto che tu non conosci nessuno. Il ragazzo della pizza, il ragazzo delle consegne a domicilio, una volta era un lavoro saltuario, stagionale, per ragazzini, spesso riservato solo agli uomini perché era sconveniente per una giovane donna andar per case. Noi lo chiamavamo il fattorino. Negli Stati Uniti il cinema ce lo ha riportato in altre vesti. Il ragazzo che delle consegne è uno dei travestimenti preferiti dagli investigatori o dai killer psicopatici che studiano l'ambiente di caccia. Thank you. abbiamo diritto di tutto. Se fa male, adesso se fa incidenti, adesso non c'è niente. Non va bene così. Infatti se vai su strada tu trovi un po' di gente che dici bravo, però adesso è finito il coronavirus e hanno portato un contratto che noi non c'è diritto di niente, non va bene. Noi vogliamo un contratto verito, un contratto vero, è capito, come gente che lavora in fabbrica, è capito? Non va bene così, non possiamo lavorare così, non siamo animali. Da un'indagine dell'ispettorato del lavoro su Deliveroo in Spagna a Madrid. I riders dovevano rispettare regole precise e addirittura i più giovani facevano un periodo di affiancamento, dei veri lavoratori subordinati, non indipendenti come dichiarava l'azienda. Così la Previdenza ha sporto denuncia reclamando il mancato pagamento di 1.200.000 euro di contributi e questo martedì un giudice ha condannato Deliveroo per frode alla sicurezza sociale. Le polemiche sulle condizioni di lavoro dei riders sono montate dopo che a maggio uno di loro è morto sul lavoro. Risultava un collaboratore. Al centro città e più te danno i marci, più ti avvicini al centro città e più arrivano che non c'hanno i soldi, mancano euro, gli mancano centesimi, gli pure sta a far credito perché gli mancano i soldi. Allucinante, guarda, la differenza è assurda. Però sì, appunto, c'è il fatto che chi porta tipo Amazon, sta roba del genere, pacchetti, cose, arrivano, sono, scendono, se viene cosa e se ne vanno, ciao, hanno finito. Cioè, mentre io faccio una consegna di saponi, mentre io faccio la consegna a un condominio, passano davanti a me, se ne vanno, in media 3 di Amazon, che arrivano, suonano, danno il pacco e se ne vanno. Io invece sto là che la signora viene giù, controlla i saponi se sono buoni, controlla se è tutto a posto, se ci ho messo il panno, quello che fa bene, se ho messo il tappetino magico, se ho... tutto mi controllano, capito? Poi, vabbè, insomma, questo è. Crazy, do the mumble like a crazy river. Sì, buongiorno, grazie per la linea. Sono Taro da Palermo. Volevo testare con voi questo servizio di consegna a domicilio della Takeaway. Proviamo a chiamare. Buongiorno signore, sono Lina del servizio Takeaway, operatore 555 Romania. Mi dica che cosa vuole. Volevo ordinare uno sfincionello. Come si scrive? Sfincionello. Ok, e dopo? Un paninozzo con amiosa. Panino con chi? Amiosa. Miosa. Non capisco, signore. Miosa. Amiosa. Miosa? Lei mi usa? No, un panino con amiosa. Va bene, signore. Fra 10 minuti arrivo, operatore. Al suo indirizzo. Ma lo sai il mio indirizzo? Sì, lo vediamo dal telefono, va bene signore, arrivederci. È già arrivato, eh. Buongiorno signore, se mi siete che vuoi, piatti pronti. Efficientissimi, che mi ha portato? Quello che lei ha ordinato, ecco, può aprire e vedere. E chi so che è? Piatto ordinato da lei, sarmaca. Sarmaca? Ma che è? Piatto tipico rumeno, sarmaca. Io adesso ho sfencione. Operatore è scritto sarmaca. Ma a me non mi piace. A me usava poi tu. Ecco signore, moussaka. Che è questa moussaka? Meosa. Moussaka, moussaka. Meosa. Moussaka. Meosa. Moussaka. Meosa! Moussaka! Meosa! Consegne a domicilio viaggia sui marciapiedi di Washington. È alto circa mezzo metro, ha 6 ruote, 9 telecamere, la forma di un cubo e fa parte della nuova generazione di robot fattorini studiati per rivoluzionare il mercato. Il progetto pilota è dell'azienda americana Starship Technologies, una startup creata dai fondatori di Skype che sta testando i suoi dispositivi nella capitale con l'idea di allargare a breve il test ad altre città. L'obiettivo è riuscire a fare consegne nel raggio di circa 3 km entro 15-30 minuti. Il cliente potrà ordinare una pizza, farsi portare la spesa, controllare tutto il percorso tramite un'app. Il contenitore non è riscaldato né refrigerato. L'ambizione è fare consegne così velocemente da non averne bisogno. Lo andamos buscando, pobrecito torpedino. Oggi Urban Cycling Style sfila sulle passerelle del Prêt-à-Porter. Una figura, quella del biker che ha attraversato i tempi, ma sempre è stata vittima del lavoro nero, dello sfruttamento, della mancanza di garanzie e prospettive. Lavoro logorante e alienante, e non stiamo parlando di quel film dove il fattorino di Azamon consegna una pistola laser in una casa abitata da extraterrestri cospirazionisti. E Uber Eats hanno firmato un accordo collettivo che nessuno di noi vuole. Lo vogliamo? No! Lo vogliamo? No! Lo vogliamo? No! Quello che chiediamo da quando abbiamo iniziato a mobilitarci circa 4 anni fa è un contratto con la malattia, le ferie, la paga oraria. Oggi c'è un presidio, c'è una mobilitazione nazionale. Da oggi però dichiariamo guerra alle piattaforme, perché è ora di mettere in ginocchio queste aziende. Siamo stupidi, non siamo schiavi, siamo lavoratori. Dopo i Pony Express anni 80 che andavano in giro con moto e motorini super scassati e super truccati, negli anni 90 il delivery biker ha recuperato un certo fascino grazie alla diffusione del cyberpunk e un'ondata che ha resumato la bici come mezzo di lotta ecologista urbana. Rider e del delivery è un lavoro che fa comodo a tutti, è inutile negarlo, ma che porta e ha portato e porterà sempre di più anche sotto casa nostra l'orrore del caporalato. Pensiamoci. Todo meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul. Não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração. Thank you. Indipendenza e libertà in termini di tempi, luoghi, orari e modalità di prestazione, sebbene non vi sia alcun obbligo di accettare alcun lavoro con noi di delivery, no? Non capisco. Sei tra i ciclisti con la percentuale più bassa di consegne accettate mentre disponibili nell'app della tua zona. Più bassa. Di conseguenza abbiamo deciso che non ti offriremo più lavoro in base al tuo contratto con il fornitore. Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro 3 secondi, 2, 1, non potrai più consegnare con noi. Noi non ci assumiamo nessun obbligo, ma siamo qui per aiutarti. Il tuo account sarà disattivato tra 3, 2, 1. Come disattivato? Melhor eu ser amante. É melhor eu ser amante. É melhor eu ser amante. É melhor.

Anche oggi purtroppo siamo giunti al termine della puntata. Sono costretto quindi a ringraziare DJ Fattorino per il suo prezioso intervento. Carlo DJ in meno, sono costretto anche io a ringraziarti per averci dato la possibilità di portare le nostre testimonianze. Aspetta, mi sta arrivando un alert dalla chat di supereroi, che c'è Mazzingara che sta facendo una festa a casa di Carminati. Mi raccomando ragazzi, chi è in ascolto, venite, accorrete tutti numerosi, montate in sella e venite da noi. E mi raccomando, prenotatevi una corsa per la prossima puntata di Eclettismi Spaziali Sototropicali. Cantare. Eclettismi spaziali sono tropicali.